Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cosa hai avuto questa vita? A New York era bimbo, era bimbo. Famosa sceneggiata, così mi dice. Forse avete capito poco, cara ascoltatrice, cara ascoltatore. Questo era un audio praticamente, non so se dire carpito, comunque pubblicato sia dal Messaggero che dalla Repubblica, che registrava Lotito, di qualcuno che ha registrato Lotito, presidente della Lazio. Sapete questi giorni cosa è successo, abbiamo parlato molto e ne parliamo ancora oggi di questa squallida vicenda degli insulti antisemiti. E ci sono dei retroscena, nel senso che Lotito, dopo che ha preso le distanze dagli ultra, è andato alla sinagoga di Roma, ha posto una corona di fiori. Prima di andare alla sinagoga sembra che abbia detto, mentre non so, nell'aeroporto o in aereo ancora non è chiaro, ha detto vabbè, andiamo a fare sta sceneggiata, insomma, no? Quindi diciamo che per mettere in qualche modo ovviare a questa faccenda ha messo, diciamo, una pezza peggiore di quella che era il buco, come si dice. Ci ritorniamo tra poco, perché ci sono delle novità. In più vedo adesso che sono iniziate le partite di Serie A, cori vari dalle varie curve sud per coprire la lettura dei brani del diario di Anna Frank, che è una delle iniziative che sono state fatte in questi giorni, no? per protesta contro quello che è successo. Eppure, insomma, gli incivili, diciamo, sono un po' ovunque purtroppo nel calcio. Il calcio ancora non riesce a liberarsene. Parleremo però anche di politica, visto che oggi ci sono state le 5 fiducie al Rosatellum al Senato. E poi scusate la voce è quella, e parleremo anche del caso dell'oste o del ristoratore di Lodi, che vi ricordate aveva sparato a un ladro che si era introdotto nella sua proprietà. Bene, l'accusa non è più di omicidio ma di eccesso di legittima difesa. Sapete che è un tema molto caldo, quindi ne parleremo con una giurista. Per i vostri commenti ricordatevi che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per scrivere SMS e WhatsApp, che è 349 238 6666. Quindi prima di tutto sintesi della giornata. Legge elettorale al Senato, passano le 5 fiducie, ma tra caos e proteste, 5 Stelle bendati in piazza, Napolitano critico. Pensioni, il PD frena sull'aumento dell'età per la pensione, per la consulta è legittimo il bonus Poletti sulle perequazioni. La vicenda degli insulti antisemiti, frasi shock del presidente della Lazio Lotito prima della visita in sinagoga, e la corona di fiori finisce nel Tevere. La crisi spagnola, la Catalogna verso l'indipendenza, ma il governo si spacca. Il presidente catalano Puigdemont dichiara: Madrid vuole distruggerci, noi andiamo avanti. Il ristoratore che uccise un ladro a Lodi cade l'accusa di omicidio, per il PM ora eccesso di difesa. Calcio, turno infrasettimanale in Serie A e big in campo ad inseguire l'Inter, che ieri si è guadagnata il primo posto in classifica. Quindi partiamo prima di tutto dalla legge elettorale, con le 5 fiducie che sono passate al Senato, ma tra le proteste in aula e fuori. Passano tutte e 5 le fiducie al Senato sulla legge elettorale, l'ultima con 145 voti favorevoli e 17 contrari, nessun astenuto. Domani il voto finale, dopo una giornata convulsa dentro l'aula di Palazzo Madama, ma il PD è soddisfatto. Andrea Marcucci. Il Paese aveva bisogno della legge elettorale, abbiamo fatto di tutto per trovare un accordo ampio, alla fine forze di maggioranza e di opposizione hanno trovato questo testo sul quale si sono allineati, mi sembra comunque un buon risultato. Tra le voci critiche anche l'ex presidente Giorgio Napolitano, che oggi non ha votato le fiducie ma dirà sì domani al voto finale per salvaguardare la stabilità. E sono 13 verdiniani che votano con il governo per far passare la fiducia. Ciro Falanga di Ala. Abbiamo votato la fiducia tecnica e non la fiducia politica al governo. Siamo giunti alla conclusione, nella determinazione, che questa legge è una buona legge elettorale. Escono dall'aula Lega e Forza Italia. Maurizio Gasparri. Noi votiamo il voto finale ed eventuali votazioni ad articoli che non siano sottoposti al voto di fiducia, perché condividiamo la legge ma non vogliamo, con dei voti di fiducia, alimentare confusioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto MDP, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula durante i voti di fiducia. Il Movimento 5 Stelle ha protestato anche in Piazza del Pantheon, dove Grillo, Di Maio e Di Battista si sono bendati gli occhi sul palco. Poi torniamo a parlarne tra poco. Altro tema nel dibattito politico di questi giorni sono le pensioni, di cui abbiamo parlato anche ieri. Il PD frena sull'età e c'è il via libera della consulta al bonus Poletti. La Corte Costituzionale salva il governo sulle pensioni, evitando alle casse dello Stato un salasso che sarebbe potuto costare anche 30 miliardi di euro. La Consulta ha infatti stabilito che il bonus Poletti sulle perequazioni pensionistiche è legittimo. Bocciati dunque i ricorsi contro il decreto con cui nel maggio 2015 il governo Renzi ha concesso una restituzione solo parziale dei soldi persi a causa della mancata rivalutazione degli assegni pensionistici, decisa nel 2011 dall'allora ministro Fornero e dichiarata incostituzionale dalla stessa Consulta. Un bonus insufficiente, secondo i ricorrenti, che lamentano penalizzazioni per 6 milioni di pensionati. Per la Corte Costituzionale, tuttavia, la norma realizza un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica. La decisione della Consulta nel giorno in cui il Partito Democratico si schiera contro l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni, lo fa attraverso una nota ufficiale del vice segretario del partito e ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, che invoca un rinvio dell'entrata in vigore del meccanismo. C'è una legge e la legge si applica, la risposta del ministro del Lavoro Poletti, che apre comunque un confronto in merito. Il tempo c'è, afferma, visto che la legge andrà in applicazione all'inizio del 2019. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di pensioni, secondo i dati Istat, in Italia sono senza pensione 16 donne su 100. Ogni 100 donne 16 non hanno la pensione e quasi la metà delle donne in Italia ha una pensione sotto i 1.000 euro. Le donne nel nostro paese sono mediamente più istruite degli uomini, ha detto il presidente dell'Istat Giorgio Alleva, ma i loro tassi di occupazione sono ancora molto bassi, l'ha detto in audizione oggi in Commissione Affari Costituzionali della Camera per l'indagine conoscitiva sulla parità di genere. Ha detto la causa di tutto questo sta nella bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei tempi di lavoro e cura in casa. Quindi adesso il caso degli insulti antisemiti all'Olimpico, sono 16 indagati, anche oggi una giornata di polemiche, dichiarazioni e gaffe. Il rabbino sta a New York e il vicerabbino ci sarà. Mai capito come stamo? Famo sta sceneggiata. Claudio Lotito ieri parlava così al telefono con qualcuno dei suoi collaboratori a bordo dell'aereo che lo avrebbe portato a Roma. Di lì a poco sarebbe andato a deporre la corona di fiori in sinagoga. Parole inizialmente smentite dal diretto interessato, ma poi pubblicate questa mattina con tanto di audio dal Messaggero. E ironia della sorte, nelle stesse ore in cui la sua corona di fiori veniva trovata nelle acque del Tevere, a gettarla pare siano stati alcuni ragazzi della comunità ebraica. Una reazione alle offese di Lotito. E del resto anche la presidente Ruth Dorighello a Sky TG24 si dice inorridita. Un rappresentante di una società di calcio che si esprime nel modo in cui abbiamo visto esprimere alcuni di loro, non voglio personificare, in questi giorni, mi fa inorridire. E sulla vicenda interviene anche il capo della polizia Gabrielli, definendo vomitevole l'ironia sulla Shoah. Gli irriducibili intanto non seguiranno la squadra a Bologna per non essere complici, dicono, del teatro mediatico delle ultime ore. Tutto questo mentre sale a 16 il numero degli identificati per gli insulti razzisti all'Olimpico. 3 minorenni, di cui uno di soli 13 anni, per legge non è nemmeno imputabile. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. Poi, come vi dicevo, ne torniamo a parlare. Intanto però spostiamoci su all'Italia, perché c'è un nuovo acquirente per la compagnia aerea. Spunta una via americana per Alitalia. A farsi vivo il Cerberus Capital, uno dei principali fondi di private equity statunitensi. Stando alle indiscrezioni del Financial Times, avrebbe contattato la compagnia con un'offerta che potrebbe cambiare lo scenario. Altre 6, ricordiamo, le proposte sul tavolo, ma tutte destinate ad un asse dell'azienda. Le più importanti, quelle di Lufthansa e EasyJet, dirette ad una parte della flotta, dei piloti e della manutenzione. Cerberus invece prenderebbe tutto. Il fondo, secondo le regole europee, non potrebbe però avere più del 49% della nuova azienda, dovendo quindi allearsi con uno o più partner. Tanto che, per evitare matrimoni ingombranti, avrebbe chiesto il mantenimento di capitale pubblico in Alitalia. L'investimento andrebbe invece tra i 100 e i 400 milioni di euro, con la disponibilità di intervenire già prima dell'acquisto nelle prime fasi di ristrutturazione. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Soddisfazione al Ministero dell'Economia per il ritorno in borsa del titolo MPS. Il lavoro di questi mesi, fanno sapere dal Ministero, è stato compreso e apprezzato dai mercati. MPS ha chiuso la seduta di borsa dopo 10 mesi di sospensione con un prezzo di 4,55 euro ad azione, che attribuisce alla banca un valore di quasi 5,2 miliardi. E ora all'estero, con la crisi spagnola, il presidente catalano Puigdemont ha convocato una riunione straordinaria del governo questa sera. Secondo l'Avanguardia, secondo i media, le divergenze sulla risposta alla minaccia di commissariamento da parte di Madrid portano il governo sull'orlo della crisi. Il governo catalano: non perdiamo tempo con chi ha già deciso di distruggere l'autogoverno della Catalogna, ha detto il presidente catalano su Instagram a proposito della sua decisione di non andare al Senato di Madrid, e dice invece andiamo avanti con l'indipendenza. We'll be right back. Notizia che riguarda il Messico: nel 2017 si chiuderà in Messico con più di 24.000 omicidi e 18.000 presunte esecuzioni attribuite a bande criminali, e sarà dunque di gran lunga il peggiore anno nella storia recente del paese in materia di insicurezza. Lo afferma l'organizzazione non governativa Semaforo Delittivo in base alle proprie statistiche. E poi in Iran due ragazze sono state arrestate perché guidavano una motocicletta e ne avevano diffuso le foto su internet. È accaduto ad Exful, nella regione del Khuzestan. Il fatto ha riacceso il dibattito intorno a un divieto, quello di guidare moto ma anche biciclette per le donne in pubblico, che in più occasioni è stato però messo in discussione nei fatti. Dopo che le foto sono state pubblicate su internet, sono state identificate le due ragazze arrestate. Proprio il fatto di aver diffuso le immagini del loro gesto rappresenta, secondo la polizia, un'azione contro le norme e i valori della Repubblica Islamica. Questo a proposito di chi dice che le donne stanno benissimo in Iran. Ora di nuovo in Italia con la cronaca: la Procura di Lodi ha chiuso le indagini su Mario Cattaneo, il ristoratore di Casaletto Lodigiano vicino Lodi, che all'alba del 10 marzo scorso, durante una colluttazione con dei ladri, uccise un romeno di 32 anni. La PM Laura Siani non contesta più l'ipotesi di omicidio volontario, ma solo l'eccesso colposo di legittima difesa. E sapete che è un tema molto discusso negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Ci torneremo con una giurista più tardi qui a Effetto Notte. Università: c'è un nuovo corso sulla storia dell'omosessualità inaugurato all'Università di Torino per il corso di laurea triennale in DAMS presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Il corso, tenuto dalla docente a contratto Maya De Leo, dà diritto a 6 crediti e, come spiega l'università sul suo sito, propone una storia culturale dell'omosessualità che ne ricostruisce le trasformazioni in età contemporanea tra Europa e Stati Uniti, restituendo esperienze, narrazioni e rappresentazioni collocate in diversi contesti sociali. E non è mancato gli striscioni di Forza Nuova, visto che siamo in clima, dove la parola omosessualità è stata scritta con la doppia S, che richiamano le insegne delle famigerate SS naziste. Tanto per non smentirsi. Poi musica: Fats Domino, il leggendario musicista pioniere del rock and roll, è morto a 89 anni. L'artista si è spento nella sua casa di New Orleans in Louisiana. Una notizia che riguarda i rifiuti: in Italia c'è il primo impianto di riciclo di pannolini. Pensate, abbiamo questo record. Da oggi i prodotti assorbenti non finiranno più nella spazzatura, ma verranno riciclati e riutilizzati. Succederà a Lovadina di Spresiano, vicino Treviso, nel primo impianto su scala industriale al mondo in grado di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti usati, pannolini per bambini, per l'incontinenza o assorbenti igienici, trasformandoli in materie prime ad alto valore aggiunto come plastica, cellulosa e polimero superassorbente, che potranno essere utilizzati in nuovi processi produttivi. E dal riciclo dei pannolini passo al nostro Dario Ricci. Oddio, diciamo che rimaniamo in tema di rifiuti, parlando dei cori che pure hanno accompagnato questo minuto che doveva essere di riflessione su molti campi. Partiamo dal fascistissimo menefrego di un centinaio di tifosi della Lazio prima dell'ingresso nella curva dedicata ad Arpad Weiss. Sai, Roberto, Arpad Weiss è stato grande allenatore del Bologna, esattamente, no? ti vedo perfettamente preparata, soprattutto in storia. Poi ci sono stato l'inno di Mameli cantato dalla curva della Juve a coprire sempre questo minuto di silenzio, cori pro Roma dalla curva sud, proprio da quella curva sud, stavolta riempita dai tifosi romanisti. E poi, diciamo, malgrado questo e anche per fortuna, c'è anche il calcio giocato. E allora ti aggiorno sulle partite che sono attualmente in corso, ricordando che alle 18:30 l'Atalanta ha battuto già per 3-0 il Verona. Sugli altri campi stiamo intorno alla mezz'ora, proprio la Lazio è in vantaggio a Bologna per 1-0 con la rete di Milinkovic-Savic e un calcio di rigore fallito da Immobile. In questo istante Mertens realizza il suo secondo gol della serata e porta in vantaggio il Napoli a Marassi contro il Genoa che pure era passato in vantaggio con Tarabt dopo appena 4 minuti, poi la doppietta di Mertens. In vantaggio per 2-0 Bernardeschi e Dybala su punizione anche la Juventus, pure la Roma avanti 1-0 sul Crotone, decide in questo caso un rigore di Perotti, 1-0 anche del Cagliari sul Benevento, la rete di Faragò, rigore sbagliato anche questo da Sao, ancora 0-0 Chievo-Milan e Fiorentina-Torino, con le due bollenti panchine di Montella e Mialovic sempre a rischio, e 0-0 anche tra Sassuolo e Udinese. Grazie da Luigi, ci aggiorniamo dopo, speriamo davvero che il mondo del calcio sia in grado di emarginare gli ominidi. E intanto vi ricordo, per i vostri messaggi, commenti, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp. E vedo già alcuni messaggi sulla vicenda del ristoratore di Lodi, ne parleremo poi con una giurista, vi dicevo, e anche sulla legge elettorale. Per esempio Antonio dice: quelle di MDP sentono vicino alla scomparsa politica, per questo si esercitano in simili grottesche analisi politiche, cioè loro dicono che con l'ingresso dei verdiniani, nel senso con i voti, meglio, che hanno sostenuto i verdiniani di Ala, i voti di fiducia sul Rosatellum, si sta creando una nuova maggioranza con quelli di Verdini e quindi il PD si sta spostando, secondo MDP, a destra. Ne parleremo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito quindi la sintesi della giornata e ora è il momento di cominciare ad affrontare alcuni temi con gli ospiti. Partiremo con la politica con la legge elettorale, che domani dovrebbe avere il voto finale, dovrebbe passare definitivamente il Rosatellum bis oppure 2.0, insomma bisogna dargli sempre delle aggiunte forse per alzare anche il livello, non lo so, di quello che fa la politica. Comunque ce ne occuperemo tra pochissimo, intanto i vostri messaggi a pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio Max, che dice: laziale per fortuna della Lazio, così si firma, dice: ominidi, sì, hai usato proprio il termine esatto, non serve altro per descriverli, mi fa piacere, detto da un tifoso della Lazio. Allora, adesso vi ricordo molto velocemente, per chi non era puntuale alle 21, ricordatevi dalle 21 alle 22 per essere aggiornati tutti i giorni, queste sono le notizie principali. Fiducia sul Rosatellum, 5 volte, sì, sono state votate 5 fiducie, però nel caos al Senato con Napolitano critico, Ala è stato il movimento di Ala decisivo, il Movimento 5 Stelle in piazza, bendati, Grillo, Di Battista, Di Maio. E poi il PD che frena sull'aumento dell'età pensionabile, intanto la Consulta dice che è legittimo il bonus di Poletti sulle perequazioni, lo avete sentito. Per quanto riguarda la vicenda degli insulti antisemiti, Claudio Lotito, presidente della Lazio, smentisce di aver parlato di sceneggiata in quell'audio, no, che si è sentito per la visita, prima della visita alla sinagoga, però l'audio è stato poi pubblicato dal Messaggero, che conferma e pubblica l'audio e anche il video di lui che dice: famo sta sceneggiata. Poi la Catalogna verso l'indipendenza, ma il governo catalano si spacca, vedremo cosa succede nelle prossime ore. Per l'Alitalia si fa avanti il fondo americano Cerberus. E poi per quanto riguarda il ristoratore che uccise il ladro a Lodi perché si era introdotto nella sua proprietà, per i PM ora eccesso di difesa, cade quindi l'accusa di omicidio. E poi le partite, ci aggiorneremo tra poco. Quindi partiamo dalla legge elettorale, Rosatellum bis, che come previsto ha incassato al Senato le 5 fiducie poste dal governo, domani si appresta ad avere quindi il via libera definitivo. È stata una giornata comunque decisamente movimentata, come poi anche ci confermerà la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Ciao Emilia. Buonasera. Cominciata con l'annunciato intervento dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano, no? Che aveva sollecitato per tanto tempo più volte lui le riforme, però invece paradossalmente è stato piuttosto critico sulla modalità con cui sta viaggiando il Rosatellum, ha espresso delle perplessità. Probabilmente si tratta di critiche indirizzate a Matteo Renzi e alla sua fretta di vedere approvata a tutti i costi questa legge elettorale prima delle elezioni in Sicilia. Napolitano non ha partecipato alle fiducie, però ha garantito che al voto finale ci sarà, dice, per la stabilità dell'esecutivo, e c'è stato comunque bisogno del supporto di 13 verdiniani di Ala, perché intanto Sinistra e il Movimento 5 Stelle hanno protestato, il Movimento 5 Stelle anche in piazza del Pantheon, e MDP si è sfilato dalla maggioranza, ieri ha ufficializzato di nuovo questa cosa. Allora Emilia, intanto fare sentire che cosa ha detto Napolitano, sentiamo. Il presidente Gentiloni, sottoposto a forti pressioni, ha dovuto aderire, e me ne rammarico, a quella convergente richiesta proveniente peraltro da quanti avrebbero potuto chiedere il ricorso alla fiducia non già su tutte le parti sostanziali della legge, ma su punti considerati determinanti, cosa che non ebbero la lucidità e il coraggio di fare. E poi Marcucci invece del Partito Democratico. Il Paese aveva bisogno della legge elettorale, abbiamo fatto di tutto per trovare un accordo ampio, alla fine forze di maggioranza e di opposizione hanno trovato questo testo sul quale si sono allineati, mi sembra comunque un buon risultato. Ormai eravamo fuori tempo massimo. Adesso Romani di Forza Italia, che sapete che con la Lega sostiene il PD. Una legge elettorale nella quale ci riconosciamo, che riconosce le coalizioni, che crea un giusto equilibrio fra parte maggioritaria, un terzo, e la parte proporzionale, e che rispetta la libertà di espressione dei cittadini italiani. Nel senso che è in accordo ovviamente sul Rosatellum. Poi invece, per quanto riguarda l'opposizione, crimini del Movimento 5 Stelle. È l'ultima occasione, l'ultima speranza, l'ultima possibilità per fermare questi abusivi del Parlamento. Se lei dovesse fare questo gesto oggi, Presidente, sarebbe una medaglia al petto che si potrebbe portare e sarebbe darebbe un senso a tutto questo anche per la Sicilia da cui lei proviene e che ai prossimi giorni andrà al voto. Crimi si rivolgeva al Presidente del Senato Grasso, visto che è in Senato che si è votato. Sentiamo cosa ha risposto Grasso. Senatore Crimi, io non ho bisogno di medaglie, ma ho il senso delle istituzioni. Può anche essere più duro resistere e continuare piuttosto che abbandonare con una fuga vigliacca. E poi Grillo. Dobbiamo combattere con della gente dopata. Noi non ci dopiamo, loro sì. Probabilmente vinceranno, ma se vinceremo noi la vittoria sarà tripla, tre volte. E allora cominceremo dalla Sicilia. Insomma, Emilia, diciamo che lo scontro è forte, no? Tanto anche a parte le proteste, di aver spinto MDP a tirarsi fuori dalla maggioranza. C'è, per esempio, la deputata di Articolo 1, Elisa Simoni, che ha detto: in questo modo, accogliendo i verdiniani, perché sono stati comunque, mi pare di capire, necessari per questi voti di fiducia al Senato? Sì, non tanto per il voto di fiducia in sé, quanto per non far mancare il numero legale, perché ricordiamo che Lega e Forza Italia sono usciti per non votare contro, perché loro sono favorevoli a questo Rosatello. Ma non vogliono votare le fiducie, solo il voto finale, sì, no? Sì, le fiducie perché sono all'opposizione. Quindi in due delle cinque votazioni sulla fiducia, la presenza dei senatori di ALA è stata indispensabile per mantenere il numero legale. Per un voto nella terza fiducia e per cinque voti nella quinta fiducia. Quindi, a questo proposito, infatti, Emilia, dicevo che quindi la deputata di Articolo 1 MDP, Elisa Simoni, ha detto che con il voto di fiducia di Denis Verdini il PD completa la sua trasformazione accogliendo ALA in maggioranza. Ora sono più chiare le chiusure totali di Renzi alle richieste fatte da MDP sulla legge elettorale. Il segretario del PD, dice ancora, ha scelto in sostanza di abbandonare la natura originaria del suo partito per spostarlo a destra, chiudendo così alla ricostruzione di un centrosinistra autentico. Che ne pensi di questa lettura? Beh, loro, diciamo che è il progetto di MDP dall'inizio, da quando sono usciti dal partito. Piano piano si sono diversificati nelle votazioni sul governo Gentiloni. Non è la prima volta che non votano la fiducia, non è la prima volta che dicono che sono fuori dalla maggioranza, perché il loro disegno è dire: senza di noi Renzi è costretto ad allearsi con Verdini e con Berlusconi, perché vogliono fare dopo le elezioni il grande inciucio, la grande coalizione. Insomma, tutto sommato anche questa è la loro propaganda, comprensibile, perché una volta fatta la scelta della scissione non si capisce bene per quale motivo dovrebbero fare un partito che poi si allea con il PD, no? Quindi loro chiaramente vogliono togliere più voti possibili al PD per avere questa loro formazione che va da sola. Il problema è le proteste del Movimento 5 Stelle e dei bersaniani, oltre alla questione della fiducia, che molti ritengono, appunto, fra cui anche Napolitano, non opportuna su una materia delicata come la legge elettorale, sono dovute al fatto che questo sistema elettorale in parte sfavorisce proprio loro, cioè sfavorisce proprio il Movimento 5 Stelle e MDP. Li sfavorisce perché spinge alle coalizioni, perché la parte dei collegi uninominali spinge alla coalizione, e lì si vince collegio per un voto in più, no? Ne esce solo uno, e quindi chiaramente il Movimento 5 Stelle, non avendo alleati, è un po' penalizzato, soprattutto in alcune zone al nord del centrodestra e nelle zone rosse dal PD. MDP è sfavorita perché, non volendosi alleare col PD, loro sono penalizzati dal meccanismo del voto utile, cioè non è possibile votare ad esempio in un collegio il candidato del PD e dei suoi alleati e dare il voto di lista di appartenenza a articolo 1 MDP, perché il voto della lista è collegato al collegio, quindi loro sono evidentemente sfavoriti dal meccanismo del voto utile, cioè l'elettore di sinistra che vuole dare un voto che però contribuisce alla formazione del governo e contribuisce a frenare, no, la destra e i grillini, magari non vota loro. Quindi è chiaro, ci sono anche delle ragioni di partito, ecco, che vengono sfavoriti questi due partiti. Chiaramente. Emilia, senti, Salvini, stavo cercando questa agenzia perché non la ritrovavo più, mi dicevo, ma l'ho vista veramente. Allora, Salvini dice: un accordo con Renzi e il PD mai, e portare la Lega al governo col Movimento 5 Stelle, gli chiede un giornalista, dice: l'obiettivo è di governare con il centrodestra, esclusi accordi con la sinistra, se non fosse sufficiente il centrodestra io parlerei anche con i 5 Stelle. Ti sì, sembra possibile questa cosa? Pur di non parlare con il, con il PD. Beh, convergenze fra Movimento 5 Stelle e Lega ci sono, e non da oggi, su molti temi come quello dei migranti. Però su altri sono proprio all'opposto, su no? Su altri sono all'opposto, però sui migranti, su una certa polemica anti-Europa, sulla la questione di voler uscire dall'euro... In realtà ci sono più convergenze di quelle che divergenze per certi punti di vista, però bisogna anche considerare che metà dell'elettorato del Movimento 5 Stelle proviene da sinistra, quindi ovviamente non guarderebbe di buon occhio un'alleanza con un politico come Salvini, no? E poi vabbè, sì, lì Salvini dice mai con il PD, ma il problema vero nel centrodestra è che, se come è probabile non uscirà un vincitore, perché di fatto si tratta sempre di un proporzionale, un vincitore dalle urne, e poi l'alleanza tra Salvini e Berlusconi è destinata a disfarsi il giorno dopo il voto, se si fa un governo di larga intesa tra PD e Forza Italia, se ci fossero i numeri, quindi un po' un problema... che poi la costruzione di queste alleanze, se non c'è un sistema maggioritario forte come era ad esempio il Mattarellum, e poi sono alleanze che si disciolgono il giorno dopo, come d'altra parte è successo anche nel 2013. Bersani si era alleato con Vendola, no? Però di fronte alla sconfitta del Senato, alla necessità di fare larga coalizione, Vendola ha preso il largo subito, dopo una settimana, quindi purtroppo potrebbe riaccadere anche la prossima volta. Grazie Emilia Patta e grazie, buona serata. Buona ciao serata. Emilia. Allora, ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete scrivere anche al 349-238-6666, sempre sulla legge elettorale. Vito dice: premesso che non ho simpatia per MDP, mi chiedo di quale centrosinistra è il PD. Cristiano poi dice: ricopio un pensiero del mio maestro Luciano Canfora, datato 2012, era già chiaro, tutto le sinistre occidentali si sono via via sempre più accostate culturalmente ai loro antagonisti, non per una scelta perfida, ma perché si è trasformato il corpo sociale che le costituisce. A questo potevamo sottoporlo Emilia Patta, magari una prossima volta. Ci sentiamo dopo questa pausa. La natura di prima mano. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E lo sapete, se ascoltate Effetto Notte in questo momento vuol dire che siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi. Allora, abbiamo parlato di politica italiana, abbiamo parlato della legge elettorale, visto che il Rosatellum bis ha avuto 5 fiducia oggi al Senato, domani ci sarà il voto finale con tutte le critiche che abbiamo sentito. Adesso invece cambiamo argomento, che però ci porterà, vedrete, comunque in Parlamento e comunque alla politica italiana, che su certe cose proprio non ci sente. Intanto i vostri messaggi. Davide che scrive: per Alimagna, cioè l'Italia, si fa avanti il fondo Cerberus, con un nome così, sapete che Cerbero è il cane a tre teste che fa il custode degli inferi, dice, con un nome così speriamo non spuntino le rinni e finisca tutto nello Stige. dice Davide, che è uno dei fiumi degli inferi, evidentemente piuttosto pessimista sul destino di Alitalia. Poi invece, ancora sulla politica, Elena scrive: sinceramente non capisco le richieste di articolo 1 MDP, hanno lasciato il partito, hanno dichiarato la loro differenza rispetto al PD, quindi che facciano come i 5 Stelle e non cerchino alleanze. Continuate con i vostri commenti sulle notizie alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Stiamo per cambiare argomento, vi ricordo ancora una volta quali sono i titoli principali per chi non avesse sentito. La legge elettorale di cui abbiamo parlato, al Senato 5 fiducia fra caos e proteste, 5 Stelle bendati in piazza, Napolitano critico. Pensione, il PD frena sull'aumento dell'età pensionabile, per la consulta è legittimo il bonus Poletti sulle perequazioni. E poi la vicenda degli insulti antisemiti, frasi shock del presidente della Lazio Lotito prima della visita in sinagoga e la corona di fiori finisce nel Tevere. La crisi spagnola, la Catalogna verso l'indipendenza, ma il governo catalano si spacca. Il ristoratore che uccise un ladro, ne parliamo tra pochissimo, poi la Serie A in campo e di questo ci aggiorneremo più tardi. Quindi dicevamo, la vicenda del ristoratore, dell'oste come viene definito, di Lodi, che fece fuoco su un rumeno 32enne che si era introdotto nella sua proprietà. Questo è successo il 10 marzo scorso durante una colluttazione con dei ladri entrati appunto nella proprietà di Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano vicino Lodi, che uccise un rumeno di 32 anni. Che era uno di questi ladri che erano entrati nella sua proprietà. Bene, sono state chiuse le indagini su Mario Cattaneo, 67enne. La PM Laura Siani non contesta più l'ipotesi di omicidio volontario, ma solo l'eccesso colposo di legittima difesa. Cade quindi l'accusa di omicidio. E sapete che soprattutto susseguirsi recente, negli ultimi mesi, anche negli ultimi due anni, di fatti simili. L'ultimo è stato proprio qualche giorno fa a Latina, di un avvocato che ha sparato anche lì a un ladro e l'ha ucciso, un ladro che era in casa. Insomma, questo dibattito è molto molto caldo, però è raffreddato in Parlamento, nel senso che c'è una legge che lì ferma da chissà quanto tempo e allora non si chiarisce questo aspetto della legittima difesa. Ne parliamo con un'esperta, che è Paola Ghirardelli, avvocata penalista, autrice di Legittima difesa, quando e come difendersi nel rispetto della legge. Avvocata Ghirardelli, buonasera. Buonasera. Quindi questa vicenda mi pare che vada nella direzione di altre, no, a cui abbiamo assistito, di cui abbiamo notizia dalla cronaca, che all'inizio c'è l'omicidio colposo, volontario, poi diventa eccesso di legittima difesa. Non in tutti i casi, si cambia da caso a caso, però resta il problema di capire fino a che punto, no, è legittima difesa e fino a che punto non lo è. Sì, diciamo, questa situazione è tipica, nel senso che, come abbiamo più volte detto, anch'io insomma parlando con lei, quando il pubblico ministero si trova di fronte a un reato deve fare, per aprire le indagini, una qualificazione giuridica iniziale, e quindi ovviamente a caldo all'inizio, non avendo ancora un rapporto autoptico, non avendo perizie balistiche eccetera, non avendo ancora sentito le persone coinvolte, fa un'ipotesi da una prima ricostruzione, da un primo sopralluogo. Chiaramente a conclusione delle indagini, come in questo caso, poi la vicenda può ridimensionarsi, aggravarsi, insomma, a seconda delle risultanze, quindi per quello che poi ogni volta bisogna aspettare che la magistratura faccia il suo lavoro. Sicuramente il problema, al di là dei singoli casi, perché appunto qui poi le risultanze istruttorie avranno determinato il PM nelle sue valutazioni, il problema rimane un po' a livello generale di come è scritta la norma, cioè di come poi può essere interpretata. Chiaro, l'estremo dell'omicidio volontario escludeva qualsiasi ipotesi di qualunque tipo di anche solo sospetta legittima difesa. Adesso no, rientriamo in questa ipotesi, ma ci rientriamo con l'eccesso colposo, nel senso che per ora la situazione legislativa com'è, perché poi non è stata modificata, prevede queste tre fattispecie: o è legittima difesa e allora si applica la scriminante e non c'è neanche il reato, e quindi, o meglio, il reato viene giustificato e quindi poi non si procede, o c'è un eccesso colposo di legittima difesa, cioè vuol dire la legittima difesa ci sarebbe stata ma si è ceduto nella reazione, quindi c'è una sproporzione di fatto tra l'aggressione, diciamo, i pericoli dell'aggressione e la reazione. Oppure c'è l'altra, su cui era intervenuta la nuova normativa, quindi non su questa ipotesi di eccesso, colposo che sarebbe rimasto uguale anche con la nuova normativa così come era stata disegnata, ma sulla legittima difesa putativa, cioè non c'è la legittima difesa, per esempio classico caso rapinatore o comunque soggetto entra con la mano in tasca nell'impermeabile e dice ah questa è una rapina, simulando che, di avere una pistola, in quel caso chiaramente non ce l'ha, chi si trova minacciato non è in pericolo, però ragionevolmente pensa di esserlo e può reagire. Lì si era introdotto il discorso dell'aspetto psicologico, quindi solo sotto questo profilo. Quindi ovviamente il campo, diciamo, di applicazione della norma è nei limiti di quella che è la scrittura della stessa, poi alla fine è soggettivo e viene demandato al magistrato. Come abbiamo più volte detto, più è dettagliata la norma e più è complicata, più il magistrato ha difficoltà nell'applicazione e nell'interpretazione, quindi, al di là di come si è svolto il fatto. Ma quindi c'è ancora una modifica, una normativa nuova che deve essere fatta su questo argomento e che giace in Parlamento, mi sembra di capire. Sì, tra l'altro ha subito avuto delle critiche feroci, anche perché si erano introdotte ipotesi notturne, diurne, cioè c'era stata differenziazione, no? Mm-hmm. Esatto. Ma che cosa è successo? Che come al solito, come abbiamo già detto tante volte, non si è andati a semplificare, si è andati a complicare. Il legislatore cosa fa in Italia mediamente? Non riscrive le norme da capo, diciamo, interviene su quelle che già ci sono e lo fa con inserisce frasette, inserisce un avverbio, inserisce un aggettivo. Quasi come quando si fa un compito che si mette esatto, lì tra una parola e l'altra, una si aggiunge un'altra con un segno per dire qua ci sta questa parola. Il periodo magari che ha la magagna, tra virgolette, che non è scritto bene correttamente, rimane, viene solo rimaneggiato in qualche modo. Quindi in realtà quello che si voleva introdurre, ma io l'ho detto tante volte ed è in questo apprezzabile, è l'aspetto psicologico, no? Si dice sempre non si tiene mai conto di questa, della situazione in cui si trovano queste persone che reagiscono. Certo. Il problema è che come è stato fatto, almeno sperando che poi venga cambiato, comunque allo stato, diciamo, quello che era stato vagliato dal Parlamento è esattamente questo, che l'aspetto psicologico entra solo nel caso di difesa putativa, cioè quella che le spiegavo, nel senso io non sono in concreto pericolo, appunto mano in tasca, fermi tutti, questa è una rapina, e uccido però questa persona, perché si dice lì è chiaramente tu eri in una situazione di stress emotivo tale per cui ti viene abbonata questa. Però si può invocare allora in qualsiasi caso questo, no? Guardi, in realtà in pochissimi, perché il caso classico in realtà, infatti, di cui noi spesso discutiamo, è quello più di eccesso di legittima difesa, nel senso che molto spesso quello che viene valutato è non avrà esagerato sparandogli, forse stava scappando, ad esempio nel caso era stato colpito di schiena, no? Quindi ma forse stava scappando, eccetera. Allora, questo problema dell'eccesso, tra l'altro la nuova normativa, che invece già cambia quella intervenuta nel 2006, esclude anche la proporzione, cioè quando uno entrava in casa tua si dice attualmente con la riforma del 2006, perché non è ancora stata cambiata, è presunta la tua reazione come proporzione, nel senso che se tu spari a uno che è anche armato col coltello, ma però solo per il fatto che è entrato in casa tua o nel negozio, comunque la proporzione c'è. Mm. Il problema è se sta scappando, se ha mollato il bottino, eccetera. È chiaro, eccetera. Quindi, avvocata Ghirardelli, lasciandoci a questo punto, che bisogna ancora fare chiarezza, ancora la normativa deve essere fatta come si conviene, con tutti i crismi, in modo che non ci siano arbitri, che non ci siano interpretazioni soggettive, che le cose siano chiare per tutti. Avvocata Paola Ghirardelli, speriamo di non ritrovarci per un prossimo caso, ma comunque insomma buona serata intanto. Speriamo che sia stato riformato come si deve. Ce lo auguriamo, grazie avvocata. Buona serata, grazie a voi. Buona serata, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie più importanti che vi ricordo molto brevemente: la legge elettorale che al Senato ha avuto 5 fiducie, però tra caos e proteste, poi pensioni, il PD frena sull'aumento dell'età per la pensione, dibattito molto caldo, la vicenda degli insulti antisemiti che tratteremo tra pochissimo, e poi ci siamo appena occupati del ristoratore che a Lodi uccise un ladro, cade l'accusa di omicidio, per il PM ora eccesso di difesa. Quindi ritorniamoci su questa vicenda squallidissima di cui sono protagonisti gli ultralaziali, no? Degli adesivi, dei volantini con il fotomontaggio di Anna Franca con la maglia della Roma, lasciati nella curva sud all'Olimpico, tutte l'indignazione, le polemiche che ci sono state, la condanna unanime della politica, comunità ebraica, anche del presidente Mattarella, della CEI, del capo della polizia Gabrielli, che ha detto questa cosa è vomitevole ed è veramente vomitevole. Poi la sceneggiata di Lotito, che è voluto andare in sinagoga per cercare di ovviare a questa faccenda, ma ha fatto, diciamo, non gli è riuscita molto bene, da questo audio che è stato tratto, quando lui dice vabbè, andiamo a fare sta sceneggiata, insomma, una vicenda che ha creato molto scalpore ed è anche naturalmente comprensibile visto la gravità di quello che è stato fatto. Saluto il professor Roberto Maniglio, che è psicologo, psicoterapeuta, criminologo e professore associato di psicologia clinica. Buonasera professore. Buonasera, grazie. Lei ha tracciato un profilo degli ultra, l'Identikit, è stato poi pubblicato sul Journal of Forensic Science. Che profilo farebbe? Allora, abbiamo definiti ominidi, omuncoli, degli imbecilli praticamente, che però fanno danno. E dal suo profilo, diciamo, più scientifico, che cosa è venuto fuori? Sì, diciamo, fermo restando, diciamo, la complessità del fenomeno, che, diciamo, è stata testimoniata da tanta letteratura scientifica, non solo in ambito psicologico, ma anche sociale, giurisprudenziale, etnografica, eccetera, quindi anche per rendere contezza, diciamo, della complessità del fenomeno. Ecco, da un punto di vista poi più strettamente psicologico, che probabilmente poi di tutte, diciamo, queste influenze, e la cosa, diciamo, immediatamente prima, no? Che viene immediatamente prima del comportamento, quindi dell'azione, quindi dei fatti anche di cui stiamo discutendo, diciamo, il fenomeno, se potremmo riassumerlo in una parola, è soprattutto prevalentemente comunicativo. In che senso? Cioè la mente, il comportamento degli ultras è finalizzato a raggiungere la supremazia rispetto agli altri gruppi, una supremazia che deve essere comunicata e quindi riconosciuta dagli altri. Questo, diciamo, è l'estrema sintesi. Quindi poi tutti i comportamenti. Lo si può definire, professor Maniglio, come una sorta, anche magari più banalmente, di becero macismo, di sentirsi potenti e importanti grazie alla violenza, grazie al fatto di andare avanti come degli schiacciasassi senza sensibilità su nulla? Sì, molto più banalmente. Diciamo, purché, diciamo, vengano però riconosciute queste cose non come il fine ma come lo strumento, sono questo il mezzo, no? Quindi tutto, diciamo, ovviamente il legittimo e giustissimo disgusto, si parlava di scalpore, questi comportamenti, fatti riprovevoli, disgustosi, eccetera, giustamente per la sensibilità di chiunque, non solo poi, diciamo, per chi poi è più vicino come storia o altro, diciamo, alle cose che vengono poi ai fatti. Però tutto questo è bene riconoscere comunque che sono uno strumento col quale, appunto, suscitare quello scalpore per lasciare il segno forte che di una supremazia che nella mente e comportamento devianti, ovviamente, dell'ultras equivalgono a, diciamo, a proprio al farsi riconoscere dagli altri gruppi, a distinguersi in questo, esempio, in questo modo squallido. Ma sì, professor Maniglio, mi dica, sì, in chiusura, sì, diciamo, si fa meglio anche dal punto di vista dei media, pur con un atto così grave, a diciamo proprio non occuparcene, a ignorarli oppure a parlarne? No, certamente non si può non occuparci di queste cose, perché appunto urtano profondamente in maniera fortissima la sensibilità di tutti, no? E quindi non ci si può, però bisogna però sapere, appunto, che il modo per prendere il fenomeno è quello certamente preventivo, quindi, come ho sentito dire anche oggi da illustri, diciamo, personalità, che probabilmente bisognerebbe ritornare nelle scuole a fare un'azione educativa, ma che non sia però come quella che è stata fatta per tanti anni anche con, penso per esempio con le droghe o altro, dove si mostrava soltanto e si indicava questo è brutto e non bisogna farlo, il sesso no, è brutto, senza spiegare, non bisogna farlo. Chiaro, professor Maniglio, c'è anche un ascoltatore che chiede di tornare a educare la civiltà nelle scuole. La ringrazio, professor Roberto Maniglio. Adesso dobbiamo sentire Dario Ricci sugli aggiornamenti del calcio giocato per fortuna mi pare in modo abbastanza normale stasera. Sì, ecco, abbastanza è d'obbligo, visto che tutto sommato ci sono stati degli atteggiamenti discutibili ecco, da parte di diversi gruppi ultra in occasione del minuto di riflessione voluto dalla Lega Calcio e dalla Federcalcio su, dopo i fattacci. Della curva sud dell'Olimpico. Comunque, dicevamo, calcio giocato, siamo intorno al 50esimo su tutti i campi, proprio la Lazio in vantaggio per 2-0 a Bologna, 1-0 del Cagliari sul Benevento, il Milan in vantaggio per 2-0 a Verona contro il Chievo, decidono uno splendido sinistro al giro come al solito di Suso e l'autogol di Cesar sempre su cross dello spagnolo, Fiorentina avanti per 1-0 sul Torino con gol di Benassi, il Napoli ritrova momentaneamente la testa della classifica grazie al 2-1 sul Genoa con la doppietta di Mertens, 2-1 anche della Juventus sulla Spal, 1-0 della Roma sul Crotone, 1-0 anche dell'Udinese a Sassuolo.